Tocca, tocca. Chiamari. Chiamari. Chiamari. Che facendo, cioè? Non mi tacci, dov'è? Chiamari. Chiamari. Tatava. Non mi tacci, dov'è? No, con il cattasso. Che facendo, cioè? Facendo, sto. E beh, Giomari, come qua? Non lo abbiamo bene noi, no? L'abbiamo divisa, a me non mi ha toccato niente. Ah, così, Aspetta, raccomando, Mari. Vabbè, sto bene così, no? Non mi preoccupo quel tanto, capito? Oh, cioè, ci fossi, di più sarebbe meglio, però non ce l'è, allora... Prenditi quello che c'hai. Allora, che su poco ma sempre andendo. Eia, sempre così. Cosa stai combinando? Mi guardando Geo. Facciamo qualche battita al telefonino, ma niente di che. Volevamo fare la torta, poi Maria, no, domani la facciamo, va bene. Ah, poco fa potrei fare la parte, ma hanno i robotari, che su Cristoforo lo sono arruinati, cazzo. Magari su altri dolci. E allora? Cazzo, stai smontendo e montendo, so. Su banzi copro di altri dolci. Sì, su banzi vanno, che basta di bufalo. Cubi candy, io se lo bussare con il Cristoforo. Il Cristoforo è la Cubi candy. E allora, come che adesso ci sto fuori? Bubu, andiamo. Per carità, gatto. Ma tu sei pedaffalato, non fa mai riposo, visto, gatto. No, proprio, visto, non mi dovrebbe stare zinco. Ha detto che si riposa al cimitero, tu. Ehi, dai, giovane ancora, andai lì, là. Dai, giovane ancora, hai più per tempo. E allora? Ma tu si riposa in Chivi. Allora, per carità. Ma che dobbiamo fare? Lasciamolo fare così, almeno si svaga, vai. Un poco bicchetto, un poco di yoga. Anzi, è di buono, cosa vuoi fare? Allora, almeno fa qualcosa, Giomari. Almeno fa qualcosa, là, sempre andato a far atto. Ma tempo per la radio mi sa che non ne ha più, E chi se ne pare che non ne tratta più, chissà. C'era una volta che ce l'aveva con noi perché non entrate, noi non entravamo poco, no. E si lamentava che noi non entravamo, mica, se faceva Edu, ha ciabato Edu, sì. E quando entra, dici, dati le passanti, a poi si nanda, e non fare da più. Non sai che gusti, come finisci un metro non entra più. Vabbè, adesso lo passo a farsi il bici. Non so chi, vabbè, dai, sai, mano è vaccinato, Se mi ha avuto la farina, Giovanni, e tutto l'occorrente mi avevi fatto la zucca, torta di mele, ma purtroppo non ce l'ho, facciamo domani. Prendi tutto, esci, prendi tutto e te la fai. Cosa, Giovanni, ho capito. Ma cosa vuoi fare, la torta di mele, così è? Eia. Ma se tu non c'hai tutta l'attrezzatura, adesso fai così, ti cambi, esci, prendi tutto quello che devi prendere e te la fai. Ah, ma non aggiungare, Giovanni, dici, mi devo vestire, a chi mi ha voglia. Se hai voglia di torta di mele, è buona, La torta di mele è molto buona, ogni tanto me la fa mia figlia così. Fa bene pure, dai. Però ogni tanto. Te la fai domani allora, dai. Io non c'ho qualcosa da fare domani, Giomari. Va bene. Allora, cosa ci racconti di bello? Che, Giomari? Sto aspettando che mi chiami un Pippo per darmi i soldi, ancora nulla. E speriamo che ti chiami almeno adesso. È un macello, è un macello, per carità. Però mai tu ti arrangi con qualche cosetta così, se no cazzo, un ribus, eh. Aspetta a me. Pensa che è in giro chi su mio Mario, mi ha mandato un messaggio adesso. Dai, vai. No, mi ha mandato un messaggio che dobbiamo fare un lavoretto, là. Oh. Beh. Bisogna andare a perdere niente, tu. Sì, cos'è Gio Mario? Ho capito. Ho detto quando esce, bisogna andare. Allora. Adesso appena, vabbè, la gioca già è scritta, ma adesso appena esce, vado. Poi il periodo di asparagi, vado a fare asparagi. Non gli dimmo io campagna, a me mi piace proprio camminare, mi piace. Ehi, ehi, fai subito lui, che hai la grisa, lui, sa cosa fai fermo. Qualche cosa c'è, c'è sempre, dai. Meglio bicultà che abbaidati sia chiuso. Ma io sono sempre andato, Gio Mario, sempre. Chi su Boggo? E allora, poco a poco, ma sempre andando. Hai visto, invece, ma si mando, vive di reddito, è tranquillo, eh. E allora, lui sì, Gio Mario, e noi dobbiamo lavorare, invece. Ma lui vive di reddito, hai capito, per cui non ha bisogno di lavorare, che... se vuole fa male la schiena a spiegarsi, a lavorare, capito? Però non so tutti se lo possono permettere. Ma infatti lui vive di rendita. E allora noi invece no, noi non abbiamo, lui ha troppo. Ehi, vabbè, ciao, mangiamo il mattesi poco poco, Luca. Allora mette qua giù. Ehi, Lu, mi stanno chiamando, ci sentiamo, dai. Io sono qua, io domani. Ok, eventualmente, se riempri, ti chiamo, dai, ciao. Ciao.